Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. E allora, buonasera per il Liberamente di oggi. Iniziamo subito. Mi senti? Abitavano a Hamra, un quartiere un po' caotico ma molto affascinante, pieno di gente di tutti i tipi che passeggiava sulla strada principale entrando e uscendo dalle migliaia di negozi di abbigliamento, allineati in fila uno accanto all'altro. Olivia notò subito che in strada c'erano moltissimi bambini, chissà perché non ci aveva mai fatto caso prima. Cosa facevano in giro da soli per la strada? A Bologna, le rare volte che la mamma le aveva permesso di spostarsi in città per conto suo, aveva attirato su di sé molti sguardi curiosi e poi commenti, domande fastidiose: dove vai tutta sola? Dov'è la tua mamma? A certa gente bisognerebbe mandargli a casa gli assistenti sociali. Lei di solito accelerava il passo, non rispondeva e si faceva i fatti suoi. Una volta l'avevano scambiata per una bambina di strada e qualcuno le aveva addirittura fatto scivolare una moneta in mano. Come si era vergognata. A Beirut invece i bambini si mischiavano alla folla e sembravano a proprio agio, immersi nel flusso dei passanti. Nessuno sembrava farci caso. Li osservò per un po' dal portone, incerta sul da farsi. Poi prese coraggio e decise di imitarli. Si diresse verso destra senza una meta precisa. Allora, abbiamo sentito Lena, poi siamo uscite con Olivia nelle strade di Beirut. Infatti questo libro che ti sta lieve la terra di Camilla Di Concini è ambientato a Beirut. Si tratta della storia di una bambina che ha perso la madre e è stata mandata a Beirut dalla sorella della madre. Abbiamo con noi al telefono Camilla Di Concini. Camilla, ci Ciao senti? A Ciao a te. Sì, vi sento. Allora, grazie di essere con noi stasera. Io ti chiederei, ti chiedo per la prima, è tardi, scusami. Perché questo libro l'hai ambientato a Beirut? Presentati un po', raccontaci un po' il tuo legame con il Libano. Beh, un legame con il Libano è un legame di grande amore. È un paese dove ho vissuto per circa 4 anni, fino a 3 anni fa vivevo a Beirut lavorando come cooperante per diverse organizzazioni italiane. E diciamo che se all'inizio l'incontro con la città è stato molto complicato, perché Beirut a prima vista è una città molto brutta in realtà, no? Molto caotica. Poi pian piano mi sono proprio innamorata della città e da questo amore verso Beirut è nato anche il desiderio di parlarne in una maniera un po' meno stereotipata, no? Mm-hmm. Molto spesso rientrando in Italia mi trovavo a confrontarmi con amici, amiche, familiari e mi rendevo sempre più conto che tutti avevano una visione molto così stereotipata del Medio Oriente e del Libano in generale, e quindi mi piaceva l'idea proprio di raccontarlo attraverso un racconto intimo di una bambina, no? un racconto molto personale anche, e darne un'immagine un po' diversa da quella che normalmente abbiamo dai telegiornali o dai media, dai mass media. Infatti il brano che ha letto Alessia, grazie a te Alessia di essere anche con noi, fa parlare la ragazzina quando esce per la prima volta nelle strade di Beirut. Sì, questa è una delle cose per me che mi ha colpito molto di Beirut, il fatto che appunto, come Olivia, no, si stupisce, ci sono un sacco di bambini in giro e quindi diciamo la libertà di movimento che hanno i bambini e anche la partecipazione che hanno come esseri umani a pieno titolo, cittadini a pieno titolo nella città per certi versi, no? Possono, mentre da noi tutta una serie di regole di sicurezza, diciamo, no? Tendono a far sì che i bambini si spostino sempre solo accompagnati dai genitori, spesso in macchina, e vadano da un punto all'altro ma senza realmente percorrere autonomamente lo spazio. Una delle prime cose che mi ha colpito in Libano era proprio invece questa mobilità dei bambini e delle bambine, e forse proprio il fatto che molte cose mi hanno colpito del paese, mi piaceva l'idea di raccontarle attraverso lo sguardo di una bambina, quindi di qualcuno che più facilmente per certi versi si sorprende, no? Sì. Perché è tutto un po' una novità, ma al tempo stesso che in realtà vive le cose in maniera più naturale rispetto a una persona adulta, rispetto a una donna o rispetto a un uomo, perché ha meno sovrastrutture, quindi da un lato si sorprende più facilmente, dall'altra però anche entra ha meno dentro. Filtri, entra dentro, ha meno pregiudizi. Continuiamo a entrare in questo libro. Sì. Poi ti bagnano di dolore e tu cresci bene, e tu cresci bene. Si sdraiarono sull'erba umida a guardare il cielo attraverso le foglie degli alberi. I loro corpi erano abbandonati con le braccia e le gambe aperte, le loro teste si sfioravano appena. Che la terra ti sia lieve. Non ti sembra strano che queste parole vengano usate come epitaffio sulla tomba di chi muore? Sussurrò Nina. No, che ti sia lieve la terra, che non ti pesi quando ti seppelliamo, che non ti trappoli in questo mondo, ma ti permetta comunque di lasciarlo, di partire. Sì, forse hai ragione. Per me però queste parole hanno un sapore di vita, come a dire che il tuo passaggio sulla terra sia lieve, che tu possa attraversarla leggera, come il folle dei tarocchi. Che c'entrano i tarocchi ora? Sì, come la carta del folle, con un piccolo fagotto in spalla che contiene solo lo stretto necessario per il viaggio. Ogni volta che il fagotto si ingrandisce, lui lascia per strada quello che non gli serve più, per evitare che lo ostacoli nel suo cammino. Allora in quel fagotto tu dovresti trovare il modo di farci entrare me. Avanza mettendo un piede davanti all'altro senza preoccuparsi troppo di dove sta andando, godendosi il paesaggio, concedendosi deviazioni, imboccando laterali e con libertà a volte di tornare indietro a cuor leggero. Però è triste vagabondare così, sempre solitaria per il mondo. Basta lasciare nel viaggio lo spazio per gli incontri, lasciar loro il tempo di manifestarsi e vivere ogni imprevisto come una gradita sorpresa, un regalo della vita. E quando sei stanca di tutto questo peregrinare? Quando sei stanca, mia dolce pigrona, puoi sempre fermarti a riposare, lasciando che le cose vengano a te. E se non arriva niente? Se niente arriva, spero che tu possa goderti quei momenti di vuoto e poi d'improvviso ripartire veloce, dritta, precisa verso un obiettivo. Allora, che ti sia lieve la terra, amore mio, disse Irena. Che ti sia lieve la terra, scandì Nina con voce ferale, e lentamente irrigidì tutto il corpo e si sollevò minacciosa sulle ginocchia, incombendo sulla compagna. Irena scoppiò a ridere e Nina, scendendo lenta su di lei, si avvicinò fino a sfiorarla. Poi di colpo ricadde sul corpo appeso morto. Irena non riusciva a smettere di ridere e Nina prese a baciarla sul collo. Le tirò sulla maglietta lentamente, poi le aprì il reggiseno e fece fuori uscire il suo seno pieno. Le succhiò i capezzoli con dolcezza, ma lasciando che Irena sentisse i suoi denti appoggiarsi sulla pelle delicata. Irena afferrò i fianchi della compagna e la ribaltò schiena a terra, aprì uno a uno i bottoni dei jeans e immerse la bocca nei ricci scuri del suo pube. Fecero l'amore ridendo nel cimitero abbandonato, nascoste tra l'erba che solletica la pelle. Rimasero così per un po' l'una nelle braccia dell'altra, a chiacchierare, quasi addormentate. Allora andiamo un po' così nel libro. A me mi è piaciuto molto perché è molto dolce. Ho scelto questo brano là perché comunque c'è il titolo dentro e, come mi lo dicevi, l'argomento della morte è un argomento presente che comunque volevi anche sviluppare, affrontare. Se vuoi commentare un po'. Sì, diciamo che questo è uno dei primi incontri tra Nina e Irena. Sono due donne che si sono appena innamorate e che fanno una loro prima gita sugli Appennini, vicino a Bologna. E mi sembrava comunque interessante che in questo momento di innamoramento, e quindi in questo momento di luce argentata, di natura bella che nasce, che fiorisce, un po' primaverile, diciamo, si trovino in realtà in un cimitero e si trovino a parlare della morte, perché Nina legge questa frase su una tomba e rimane stupita che questa frase, che la terra ti sia lieve, sia su una tomba. Proprio perché Nina invece legge in queste parole, come abbiamo sentito, un sapore di vita, no? E il tema della morte è proprio uno dei temi da cui sono partita quando ho cominciato a scrivere questo libro. Era un periodo in cui mi interrogavo su come viene vissuta la morte oggi nella contemporaneità, no? Quindi, e la mia percezione un po' della situazione intorno a me è che oggi la morte venga percepita come qualcosa da tenere lontano, da negare, no? Cercando di rimanere il più a lungo possibile giovani, sani, no? Molto anche nell'universo femminile, quello che ci viene proposto dai mass media è l'immagine di una donna sempre giovane che deve fare di tutto per rimanere il più possibile senza segni del passaggio del tempo. E questa negazione del passaggio del tempo nella nostra società di oggi mi sembra che sia ciò che ci dà un rapporto complesso con la morte, no? Il fatto di non poter vivere serenamente il passaggio del tempo, l'invecchiamento, il fatto di allontanare ogni immagine o ogni esperienza della morte da noi fa sì che arriviamo a questo momento del tutto senza mezzi per affrontarla, no? Del tutto impreparate. E quindi mi piaceva invece parlare di come si può affrontare la morte. Le protagoniste del libro affrontano tutte il tema della morte, appunto Olivia ha perso sua mamma. Sì, il lutto è molto presente, cioè è le fasi del lutto. Però appunto mi interessava il fatto che fosse presente non solo come una cosa triste, come ovviamente è, no? Mm-hmm. Ma anche come una cosa che appunto a un certo punto si può vivere con una certa leggerezza, o quantomeno con una certa dolcezza, se non con leggerezza, come qualcosa che se si vive nel qui e ora, no? Un po' come il folle, Nina, no? Sì, come il folle. Sì, se si vive nel qui e ora si può pensare di affrontare in maniera diversa. Bene. Allora, una cosa che è molto piacevole in questo libro, che comunque in cui si affronta delle situazioni, se non pesanti, non diciamo complesse, è una cosa molto piacevole è la semplicità dei rapporti tra i personaggi, come per esempio nel brano che va a leggere adesso Alessia, che è l'incontro di Olivia con il padre. Pietro è sempre impegnato, sempre in giro. Cosa avrei fatto io da sola a Londra? E poi Pietro è simpatico, ma come padre non me lo immagino proprio. Ma non avete mai vissuto assieme? L'ho incontrato per la prima volta quando avevo 4 anni. Ricordo che un giorno ho chiesto a mamma: ma anche io ho un papà? E lei che ti ha risposto? Mi ha detto che certo, anche io avevo un padre, e mi ha chiesto se lo volessi incontrare. Io però non ero sicura e ci ho pensato un po' su. E perché? Io sarei stata curiosissima. E se poi non mi piaceva? La mamma però mi ha rassicurata, dicendomi che era molto simpatico. Allora mi sono decisa e il giorno dell'incontro ho scelto i miei vestiti più belli per andare a trovarlo. Me lo ricordo ancora bene. Stivaletti neri e cappotto rosso. Eri emozionata? Non so. Però mamma mi raccontava sempre che quel giorno l'avevo fatta impazzire, disse ridendo. Sul treno non stavo ferma un minuto e continuavo a correre su e giù per il vagone. E com'è stato quando l'hai visto? Pietro è venuto a prenderci in stazione con un mazzo di fiori. Quando la mamma me lo ha indicato mi sono bloccata sul binario. Mamma mi ha presa per mano e quasi mi trascinava per farmi avanzare. Pietro mi sembrava gigante e mi guardava dall'assù con uno sguardo strano. Credo che avesse più paura di me. E che vi siete detti? Niente, io ero muta. Mamma ci ha portati in un bar lì vicino e mi ha preso una cioccolata calda. Poi loro si sono messi a chiacchierare fitto fitto, come se io non esistessi più. Ti sarei sentita malissimo visto che quei due ti ignoravano. No, invece mi sono sentita meglio. Mi sono messa a guardarli. Era bello suo padre. Sua madre le aveva tenuto la mano sotto il tavolo per tutto il tempo, accarezzandogliela per rassicurarla. Dopo un po' che lo guardava, rimestando la cioccolata calda col cucchiaino, Olivia gli aveva puntato gli occhi in faccia e aveva chiesto: «Allora sei tu mio padre?» Pietro era rimasto un attimo interdetto a quella domanda, poi di colpo era scoppiato a ridere. Anche la mamma rideva, ma Olivia non si era lasciata contagiare da quella risata e di nuovo aveva chiesto seria e un po' crucciata: «Insomma, sei tu o no?» Pietro a quel punto aveva assunto un'aria seria, appena smussata da un lieve sorriso, e aveva risposto: «Sì, sono io». «Bene», aveva detto Olivia, «mi piaci abbastanza. Ci vedremo altre volte?» «Sì», aveva risposto Pietro, «se lo vorrai». Dopo il bar avevano preso un taxi ed erano andati a passeggiare al parco di Villa Borghese. Mi ricordo che mi ero messa a giocare con le foglie secche e Pietro mi rincorreva e saltava nei mucchi di foglie tirandole in aria. «E poi non vi siete più rivisti?» le chiese Rima, quasi preoccupata. «Qualche volta a Bologna e l'anno scorso a Londra. Ogni tanto ci scriviamo delle email. È simpatico, sai? Quando vuole sa farmi morire dal ridere». Poi, dopo un breve silenzio, aggiunse: «Quando sarò grande, ci andrò a Londra a trovarlo». Allora, questo è proprio una cosa che a me mi ha colpito moltissimo, ma dall'inizio del libro, e come le relazioni, i rapporti tra i personaggi sono lisci, tranquilli. Lì, per esempio, si vede proprio che l'educazione che riceve Olivia è molto serena, che ne parla molto tranquillamente, ma comunque questa cosa è una cosa che in tutto il libro si sente, che anche se ci sono dei momenti di tensioni, comunque sempre i personaggi entrano e sciogliono la situazione e la raccontano, la vivono in modo molto liscio, tranquillo. Tu come fai a immaginare questi rapporti lisci? Beh, diciamo che da un lato è un po' quello che desidererebbe nella vita, no? Eh sì, che bella lezione. Cioè, ovviamente non è che nella vita i rapporti siano sempre così lisci. Per me, per esempio, per creare dei rapporti lisci con la mia famiglia, ma anche con le amiche, con le persone intorno, ci è voluto del tempo. Però penso che alla fin fine, ecco, questa era un'altra cosa di cui mi interessava molto parlare, no? Oggi ci sono tantissime forme di famiglie, diciamo, non convenzionali, dove i bambini magari vivono con solo un genitore o vivono appunto in famiglie omogenitoriali o vivono con i nuovi compagni, le nuove compagne dei propri genitori d'origine, hanno più figure, insomma ci sono tante nuove forme di famiglie e spaziano tanto su queste nuove forme di famiglie. E la mia impressione, per quello che osservo, è che alla fin fine quando le persone all'interno del nucleo familiare sono tranquille rispetto alle loro scelte, parlo degli adulti in questo caso coinvolti, no? In questo caso noi abbiamo la madre Olivia, Nina, che ha un rapporto molto chiaro con Pietro, padre di Olivia. Lei ha deciso di tenere questa bambina e nonostante Pietro non fosse interessato a fare il padre, e lei ha deciso di tenere questa bambina da sola, no? Sì, sì. Ora io penso che nel momento in cui i rapporti tra queste due persone adulte sono chiari e non c'è rancore, non c'è un senso di frustrazione, di tradimento o quello che è, poi nel modo di spiegare queste cose a tua figlia e di viverle con lei, questa tranquillità si trasmette. E quindi penso che in tutte le forme familiari non convenzionali la problematicità non sia interna alla famiglia, quando non ci sono delle situazioni particolari, ma venga poi con il confronto con l'esterno, nel senso che un bambino quando cresce in una famiglia dà per scontato che quello sia la normalità, no? Quello che succede nella sua famiglia dà per scontato che sia la normalità. ed è poi invece il confronto con i compagni di scuola, con le compagne, con le maestre, con gli insegnanti, con i genitori degli altri bambini e delle altre bambine, che porta eventualmente a percepire la propria famiglia come strana o come problematica o come... E quindi mi interessava appunto parlare di questo e sfruttare di nuovo lo sguardo di una bambina che è proprio in quell'età di passaggio in cui si passa dal percepire la naturalità interna della propria famiglia al confrontarsi con gli altri, quindi anche invece avere i primi momenti di conflitto rispetto a lo sguardo esterno su chi tu sei e qual è la tua famiglia, no? Sì, e lo fai bene, sì. Già stata a Mostar nel 2004 per l'inaugurazione del ponte. Era stata Nina a insistere per partire, quando aveva saputo che l'avevano ricostruito. Aveva deciso che dovevano assolutamente andarci per celebrare l'evento. La storia di quel ponte l'aveva molto turbata. Le aveva raccontato che quando l'artiglieria aveva cominciato a colpirlo, era rimasta attaccata alla TV per giorni col fiato sospeso, finché infine il ponte non era crollato. Irena non aveva capito bene perché le importasse tanto di quel ponte, ma Nina insisteva. Non era un obiettivo militare, capisci? Era un ponte pedonale. Quel ponte era il simbolo della città, un arco di pietra che univa le due comunità, quella cristiana e quella musulmana. E quindi che te ne importa a te? Aveva chiesto lei ottusamente. Hanno voluto distruggere il punto d'incontro tra due universi, tra due culture. Hanno abbattuto il collegamento, il legame tra persone che avevano sempre convissuto nella stessa città. Irena continuava a non capire, ma era inutile insistere. Quando Nina si infervorava su certi argomenti, l'unica possibilità era assecondarla. In fondo l'idea di fare un viaggetto non le dispiaceva, e Mostar era pur sempre una città che non aveva mai visto. Quando erano arrivate lì, il viso di Nina si era trasformato di colpo e il suo umore era mutevole, difficile da interpretare. Per Nina essere lì significava qualcosa di importante che a lei sfuggiva. Ne fu turbata, era abituata a sentire Nina come se fosse una parte di sé. In quei giorni a Mostar invece non sentiva nulla era una semplice testimone di processi profondi e oscuri dai quali era esclusa. Nina si soffermava davanti ai segni della guerra, lasciava scorrere la mano sui muri e sulle pietre della città, guardava i fori dei proiettili e ci infilava dentro le dita. Si fermava a lungo davanti ai segni delle esplosioni, ai palazzi divelti. Irena aveva provato a chiederle, ma lei aveva semplicemente risposto: in questo posto mi sento a casa. Un'altra cosa molto presente nel libro è il viaggio. E poi c'è questo paragono o comunque avvicinamento che fai tra il Libano e la Serbia. Come ti è venuto questa cosa? Dunque, il viaggio è molto presente perché per me è una dimensione importante all'interno della mia vita, e tra l'altro per me questo libro è stato proprio l'occasione di viaggiare, il pretesto per viaggiare, nel senso che appunto il personaggio di Irena va in Bosnia, arriva a Mostar e poi si sposta nei Balcani, e ho approfittato quindi di questo suo viaggio in Bosnia, visto che io non avevo mai fatto questo viaggio, per farlo e per proseguire poi fino a Beirut. Quindi gran parte del libro è stato proprio scritto viaggiando e attraversando tutti i paesi che da Bologna arrivano a Beirut. E la cosa che subito mi ha colpito, dopo tanti anni in cui avevo vissuto in Libano, quando sono arrivata in Bosnia, è stato proprio il fatto che il Libano mi aveva sempre colpito per la diversità culturale, per la l'esistenza di tanti gruppi culturali e religiosi che convivono su un fazzoletto di terra grande quanto l'Abruzzo, no? Molto piccolo. E quindi un passato molto ricco di conflitto e di pace, e avevo non identificato, diciamo, questa varietà culturale come qualcosa che appartenesse a un mondo più lontano da noi. Quando sono arrivata in Bosnia mi sono stupita del fatto che questo mondo invece fosse dietro l'angolo, no? E quindi, pur conoscendo poco la Bosnia, la mia percezione è stata subito di una somiglianza con il Libano, proprio per questa varietà di persone, varietà di gruppi religiosi che convivono nello stesso spazio, e ovviamente per questo passato anche di conflitti. E parlando con la gente mi ha toccato molto, mi ha colpito molto sentire una serie di racconti che mi ricordavano mie esperienze in Libano o racconti che avevo sentito in Libano, per cui per esempio questo fatto che in un contesto, in un paese dove convivono tante persone di religioni differenti, una volta che si accende il conflitto, automaticamente dopo il conflitto tutti esaltano, durante anche e dopo il conflitto tutti esaltano questi simboli religiosi, no? Per cui sia in Libano che in Bosnia le persone mi raccontavano del fatto che prima della guerra era raro vedere donne velate, era raro vedere donne con croce al collo, era raro vedere uomini in abiti tradizionali, era raro vedere simboli religiosi. C'era una popolazione che aveva un aspetto molto più laico, diciamo, no? Sì. E che poi invece col conflitto e nel post-conflitto questi simboli hanno assunto una rilevanza molto maggiore e sono diventati molto più presenti, e le persone che hanno vissuto laicamente il conflitto, quindi che sono rimaste laiche durante il conflitto, erano sconvolte tutte quante, sia in Libano che in Bosnia, per i racconti che ho ascoltato. di questo cambiamento, come se non riconoscessero più il proprio paese. Infatti anche il personaggio di Nina lo dice: non riconosco più il mio Libano. Esatto. Infatti in questo libro comunque riesci anche a affrontare e a sviluppare molti argomenti, sia dai protagonisti sia dagli incontri che fanno le personaggi da altri personaggi. Per esempio, a un certo momento Olivia e i suoi cugini incontrano dei ragazzi palestinesi, o poi Irena incontra Mina, e dunque poi c'è anche un episodio di Olivia a scuola, in cui è presente il rapporto alla violenza sessuale dentro la scuola. E non lo so se vuoi sviluppare un po', dunque per esempio la cosa con Mina e come vivono la migrazione, per esempio. Cioè. Sì, la migrazione è un altro tema per me molto importante, da italiana che ha vissuto un po' tutto il panico mediatico intorno al tema dell'arrivo degli immigrati in Italia, della presenza di stranieri e tutto quello che significa. Sono sempre rimasta molto stupita davanti a questo clamore mediatico e a come veniva presentata tutta la questione, perché comunque un po' storicamente, cioè, ho sempre sentito parlare del fatto che noi italiani 50 anni fa, 80 anni fa, 100 anni fa, partivamo con i migranti negli Stati Uniti, in Svizzera, o anche semplicemente da una parte dell'Italia all'altra, no? Sì. E quindi mi sembrava assurdo vedere ribaltato, no, la prospettiva di noi italiani, storicamente migranti maltrattati come tutti i migranti, e oggi maltrattanti di migranti, non so come dire. Questa cosa mi colpiva molto. E d'altro canto la migrazione, benché chiaramente di lusso, visto il privilegio di essere una donna bianca, italiana, insomma proveniente da un certo ambiente, però vissuta sulla mia pelle da bambina, io con i miei genitori e con mia sorella per 2 anni ho vissuto negli Stati Uniti. Mm-hmm. E per lavoro mio padre si è spostato negli Stati Uniti e quindi la famiglia si è spostata lì, e questa esperienza mi ha portato comunque, arrivata lì ovviamente, a sentirmi estranea, no? Sì. Che proprio semplicemente dai commenti dei bambini intorno, però anche tornata in Italia, una volta tornata in Italia, a percepire il fatto che comunque se in America ero l'italiana, in Italia ero l'americana, e quindi in qualche modo per un certo periodo era come se fossi rimasta sospesa tra queste due realtà. E durante il mio viaggio mi è capitato ovviamente di sentire, soprattutto sia in Libano che in Bosnia, perché comunque entrambi i paesi, avendo vissuto un conflitto, hanno subito forti processi migratori, sentire storie di migrazioni, e molte persone mi hanno anche regalato, diciamo, le loro storie, no, raccontandomele, ho trovato interessante proprio questo senso di alienazione, in qualche modo, di sradicamento che la migrazione ti dà anche dopo tanti anni che tu vivi in un paese, come però non, in qualche modo non puoi più tornare indietro al tuo, ma non sarai mai totalmente parte di quello in cui sei arrivata. E questo tema per me è molto toccante, è molto forte. Vero. E rispetto un po' agli altri incontri, sì, anche qui diciamo che ho approfittato di nuovo dello sguardo infantile di Olivia per parlare, per raccontare un pochino attraverso il suo sguardo la situazione dei palestinesi in Libano, che è una situazione molto complessa, di profughi che da lì vivono, che lì vivono da molti anni. E mi interessava affrontare la questione non tanto da un punto di vista politico, anche perché non ritengo di avere le competenze per farlo, ma più proprio da un punto di vista intimo, umano, esperienziale. E quindi mi piaceva l'idea in generale, no? Tu dici ci sono tanti incontri in questo libro. Sì, mi piaceva l'idea di parlare di queste tematiche, della questione palestinese, della migrazione, delle diversità culturali, dell'incontro con l'altro, non tanto da un punto di vista politico nel senso stretto, ma più da un punto di vista umano esperienziale, perché penso che sia una via di comunicazione preferenziale che poi porta a un risultato politico, nel senso che se io riesco a capire il punto di vista o la situazione dell'altro, poi questo ha una ripercussione anche sul piano politico. È chiaro. تعالي آه يا غزالي تعالي غير سمع عقوبالي يا زهوة بالي غيرك ما يحلالي تعالي تعالي تعالي آه يا غزالي آه تعالي غير سمع عقوبالي يا زهوة بالي غيرك ما يحلالي تعالي تعالي Il giorno dopo si diresse verso il bar Eunice e lì trovò Neymè, una ragazza minuta, sui 25 anni, dall'aspetto curato e sobrio. Non aveva niente della camionista che aveva immaginato. La ragazza si presentò e le spiegò il senso di quell'incontro. In Libano l'omosessualità è tuttora illegale, quindi vogliamo fare due chiacchiere con chiunque ci contatti prima che incontri il gruppo. Molte delle ragazze e delle donne che vengono da noi non hanno fatto coming out o lo hanno fatto solo parzialmente, e quindi è molto importante mantenere la massima riservatezza. Sì, sì, ho letto le regole del gruppo sul sito, disse Nur per assicurarla. Bene, il nostro gruppo ha un appartamento, Beit, dove ci incontriamo. Molte donne non hanno case proprie. Come sai, qui è difficile lasciare la casa dei genitori se non ci si sposa. Beit, quindi, è per molte l'unico spazio disponibile e lontano da occhi giudicanti e indiscreti. Nur ascoltava attentamente. L'indirizzo di Beit deve restare segreto, come l'esistenza stessa di Beit deve restare ignota a chi non è parte del gruppo. Le sembrava tutto molto complicato. Cerchiamo quindi di evitare schiamazzi entrando e uscendo dal palazzo e di non fare certi tipi di discorsi udibili dai vicini quando siamo in terrazzo. Non vogliamo in nessun modo che Beit sia riconosciuta come un appartamento dove si fanno attività legate alla comunità queer, perché altrimenti potremmo divenire facilmente preda di attacchi omofobi. Non deve essere facile per voi qui, si lasciò sfuggire pensierosa. Neymè le fece una serie di domande per capire chi fosse. Nur tentava di rispondere con disinvoltura, ma non era a proprio agio. Continuava a ripetersi: questa ragazza è lesbica, e questo pensiero le rendeva difficile concentrarsi sul discorso. Tentava di non guardarla troppo insistentemente. ma senza volerlo i suoi occhi la esaminavano continuamente. Notò subito che, al contrario del 99% delle donne libanesi, non portava lo smalto e istintivamente nascose le proprie unghie laccate nel palmo della mano. Poi le guardò i piedi, niente scarpe coi tacchi, e i capelli, niente messa in piega, niente colore. Merda, perché sto pensando a tutto questo? E cercò di riprendere il filo. Ho 3 figli e ora vive con noi anche Olivia, la figlia di mia sorella, che è morta 1 anno fa. In presenza di quella giovane donna, Nur si sentiva in soggezione, temeva di essere giudicata. Si risistemò i capelli, cercando di capire che idea potesse essersi fatta Naime di lei, ma la ragazza semplicemente aveva l'aria serena di una che sta svolgendo il proprio lavoro. Nur si accorse che stava fissando il ciondolo che aveva al collo, 2 specchi di Venere intrecciati che si insinuavano nell'incavo di un seno ben fatto e abbondante. Arrossì e disolse lo sguardo. Ma che sto facendo? Che mi succede? Nur non si capacitava del proprio stato mentale. Era abituata ad avere la situazione sotto controllo, ma in quel momento si sentiva una ragazzina insicura e nervosa, come una scolaretta durante un'interrogazione. Neime le sorrise, senza dare cenno di aver notato il suo turbamento. Allora, l'occasione di parlare del lesbismo, l'occasione di parlare di come vivono le lesbiche in Libano, questo pezzo di Nur che va a incontrare le altre lesbiche, le lesbiche, diciamo. Sì, mi piaceva intanto l'idea di immaginare questo incontro di una donna che per la prima volta vede un'altra donna che sa essere lesbica, che sa che è lesbica, e quindi mi piaceva immaginare questo misto di come dire timore al tempo stesso confronto, no? Guardare come è e guardare sé, quindi l'incontro che c'è sempre nell'incontro con l'altra, con l'alterità, e dall'altra attrazione e stupore per l'attrazione, e in particolare diciamo che appunto questo avviene in Libano, e volevo appunto proprio quello che dicevo all'inizio, no? Dopo tanto tempo passato in Libano, avendo vissuto tante cose là, avevo voglia di raccontare il Libano in una maniera non stereotipata, e quindi di raccontare, per quello che è stata la mia percezione, quell'universo, e quindi parlare delle donne lesbiche in Libano, quindi in un paese considerato un paese musulmano, e quindi dove comunque in generale la questione della donna, e in particolare la questione della donna lesbica, viene ritenuta molto problematica. Mi sembrava interessante, evidenziando il fatto che ovviamente ci sono una serie di problemi, come dice Nejme all'inizio, no? L'omosessualità è illegale, e quindi c'è una pratica di cercare di non essere troppo visibili, ma al tempo stesso poi, senza anticipare troppo, però nel libro si percepirà che invece c'è anche una quotidianità molto normale, tra virgolette, no? Molto per certi versi simile alla nostra. La mia percezione, voglio dire, io da lesbica in Libano certamente ho evitato di fare segni eclatanti, di manifestare in maniera eclatante il mio orientamento sessuale, ma al tempo stesso ho vissuto in realtà molto naturalmente e normalmente, nel senso ci sono stati momenti di gruppi di confronto privati, come quello che racconta un po' questo incontro di Nur con Nejme, e ci sono state invece serate o uscite in locali, uscite con amiche, quindi mi piaceva comunque mostrare anche questo aspetto come una delle componenti di questo paese, di questa realtà. Allora, come il tempo a nostra disposizione è un po', come si dice, sfolato, esaurito, butto così a caso, finisco con un'altra canzone, poi prendiamo un minuto sulla scelta musicale. Sì. Siamo davanti alla scelta di ascoltare la musica o di parlarne. Dunque scelgo di parlarne. Bon, per prima direi che abbiamo scelto delle libanese, abbiamo preso Yasmin Hamdan, Lena, e poi abbiamo sentito Kiki King, abbiamo sentito Biyuna, che lei è algerina, che vive a Marsiglia e che canta anche lei molto sulla migrazione, cantante e anche attrice di cinema. E adesso prendiamo 30 secondi per parlare della Mestrelli, perché anche con lei e con loro lavori. Sì, diciamo, quest'ultimo brano che avete sentito è anche un altro, Levante. Sono brani della Mestrelli, che è un gruppo che tra l'altro con questo ultimo brano ha vinto il premio Ciampi. E io sto collaborando con due componenti della Mestrelli, Maike Clarelli e Marcella Menozzi. Insieme a loro stiamo realizzando un book trailer di un paio di minuti per presentare il libro. Le musiche sono composte da Maike, mentre Marcella si occupa in questo caso dell'animazione. E tutto questo è nato in realtà dalla collaborazione con Sara Garagnani, l'illustratrice della copertina del libro, con la quale mi sono trovata molto bene, e quindi si è pensato insieme di fare un piccolo video di animazione per presentare il libro un pochino in giro. E quindi niente, in quest'ultimo periodo appunto noi quattro stiamo collaborando insieme alla realizzazione di questo book trailer, che penso che a breve sarà online. Bene. Mi resta solo da ringraziarti. Com'è la casa editrice del libro? È un libro autoprodotto, autopubblicato, attraverso questa print on demand che si chiama Can Print. Si può trovare online sulle maggiori librerie online, sia in cartaceo che in formato ebook. E si può anche eventualmente ordinare nelle librerie fisiche. che ti sta lieve la terra, di Camilla Di Concini. Grazie mille, Camilla. Volevi dire qualcosa, Alessia? Grazie, Camilla. Oh, scusa, vai. Grazie, Camilla. Ciao. Grazie Alessia, ciao, grazie bello. Silvi. Buonanotte. Buonanotte grazie. A te. Ciao. Vi lasciamo con come un calzum. Per noi è tempo di concludere questo bello martedì autogestito da femministe e lesbiche di oggi 11 novembre 14. Vi salutiamo e ci diciamo alla settimana prossima. Ciao. Ciao, buonanotte.